get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, in studio stasera siamo Pino ed Annalisa e vogliamo leggervi un intervento di Deborah. Innanzitutto però volevo dirvi che siamo arrivati alla 91esima nostra puntata, chiamiamola così, tipo telenovela. E prima di leggervi l'intervento di Deborah, volevamo semplicemente ricordarvi che l'articolo apparso sui giornali di Oriana Fallace, ve lo ricordate? Quello che apparse dopo pochi giorni dopo l'attentato alle Torri Gemelle in America e che scatenò poi tutta una serie di reazioni, non poche reazioni, e tra le quali ha scatenato anche la nostra. E Deborah del coordinamento Lesbiche Romane è riuscita a concretizzare il nostro pensiero scrivendo un articolo bellissimo che vi leggeremo subito dopo il brano che manderemo adesso in onda. Spero che stasera funzioni tutto alla perfezione, l'audio e quant'altro. Vi ricordiamo inoltre che ci potete contattare quando volete tramite la nostra segreteria telefonica allo 06 68 64 201, oppure se volete poi contattarci personalmente ci troverete ogni mercoledì dalle 21 alle 23 in via San Francesco di Sales, e sempre con il numero di telefono 06 68 64 201, che è anche fax tra le altre cose, quindi ci potete contattare anche via fax. Mi raccomando, non lo fate tutti insieme perché altrimenti poi ci intasate le linee e noi non sapremo a chi dare i resti, come si suol dire. Vabbè, smetto di dire sciocchezze e passo immediatamente a farvi ascoltare il brano che segue. Thank you. Dicevo poc'anzi, vi leggiamo il brano che ha scritto Deborah, e proprio insomma a proposito di quell'articolo dell'Oriana Fallaci, e infatti la rabbia e l'orgoglio della Fallaci. È il 29 settembre, 18 giorni dopo la strage delle Torri Gemelle. Una bomba senza esplosivo, ma che non ho, con un'enorme forza deflagrante, scoppia in Italia e in particolare sul Corriere della Sera. La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci. Quell'articolo scritto di getto da una delle passate protagoniste dello giornalismo e della letteratura italiana. In primo luogo ti devo ringraziare, Oriana. Erano anni che le donne non esprimevano indignate il loro punto di vista. Hanno ormai troppo l'abitudine alla mediazione con il mondo che le circonda. Se le donne parlassero di più, e soprattutto parlassero di più tra di loro, forse il mondo inizierebbe ad assumere una connotazione diversa. Non ho detto migliore, ho solo detto diversa. Infatti il tuo articolo è quanto di peggiore io abbia letto ultimamente. L'hai scritto di getto, dicevo, davvero con rabbia e soprattutto con orgoglio. Un sentimento che, teorizzato come alcuni movimenti fanno, a noi piace sempre meno. Ogni giorno è per l'orgoglio che muoiono migliaia di persone in tutto il mondo. L'orgoglio di essere irlandesi, baschi, fascisti, comunisti, neri, gialli o di una impronunciabile tribù africana, e anche l'orgoglio di essere musulmani. No, non l'orgoglio di essere cattolici. Per quell'orgoglio oggi non muore più nessuno, ma nel passato sì. Come anche tu ricordi, Oriana, nel passato sono morte milioni di persone per mano di orgogliosi cattolici. Beh, ripensandoci, anche oggi muoiono milioni di persone per l'orgoglio di qualche cattolico. Basta pensare ai morti di AIDS, ma questa è un'altra storia. Certo, non è una morte così spettacolare come l'attacco alle Torri Gemelle, e si sa. Tutto è immagine e la realtà è tanto più reale quanto più amplificata dai media. No, per carità, io non gioisco per quello che è successo in America, come tu a sproposito temi sia accaduto in Italia, Oriana, e i morti negli aerei usati come proiettili e sotto le macerie delle Torri Gemelle sono morti veri, con o senza l'amplificazione dei media. Peccato però che l'Inghilterra, sì, proprio la nazione di quel Blair, che unico uomo politico insieme a Bush, tu Oriana salvi nel tuo articolo, l'Inghilterra continui a bombardare di tanto in tanto l'Iraq, così, giusto per ricordare agli iracheni le cazzate che hanno combinato una decina d'anni fa. Sì, cazzate, ma i bambini che muoiono di fame in Iraq a quel tempo non erano neanche nati. Certo, loro non fanno così rumore quando muoiono, L'embargo è silenzioso, molto silenzioso. I palestinesi quando muoiono. No, non parlo degli attentatori o di quei coglioni dei kamikaze. Parlo di quelli ammazzati nella loro terra ogni giorno dagli israeliani, perché magari si incazzano dopo aver trascorso 4 ore per oltrepassare i controlli della striscia di Gaza, o i ragazzini che buttano le pietre al di là della rete che li separa dai soldati israeliani, o, recentemente, gli abitanti della città di Betlemme, la striscia di Gaza, un confine ipotetico tracciato in terra palestinese da chi, Oriana? Dai tuoi eroi americani. Il rumore che fanno questi morti è dovuto agli appelli alle Nazioni Unite fatte ripetutamente dal tuo odiato Arafat. Appelli che cadono nel vuoto, perché israeliani vuol dire economia, soldi. Dove? Ma in America, ovviamente. Il paese che tu chiami mio marito. Una delle profonde verità del tuo articolo, perché l'America, forse, il paese più maschio di tutto il globo. Certo, Arafat è stato proprio stronzo con te, ma hai mai conosciuto Sharon? Non credo. I tuoi erano altri tempi, i tempi di Golda Meir, una donna che ha la responsabilità dell'indurimento della politica sionista, ma anche capace di dire cose di questo tipo. La guerra è una stupidaggine immensa. Io sono convinta che un giorno tutte le guerre finiranno. Sono convinta che un giorno i bambini a scuola studieranno la storia degli uomini che facevano la guerra come si studia un'assurdità. Questa frase è tratta proprio dal tuo libro Intervista con la storia, Oriana, e quindi è come se avendola scritta tu l'avessi avallata. Erano altri tempi, forse, tempi in cui eri contro la guerra e ne hai anche tratto ispirazione per uno dei tuoi libri migliori, Niente così sia. Sulla carneficina in Vietnam, questo eri tu un tempo, Oriana Fallaci. Sempre nel tuo libro, Intervista con la storia, Golda Meir dice anche: non v'è alcuna differenza tra uccidere e prendere decisioni per cui mandi gli altri a uccidere. È proprio la stessa cosa, e forse è peggio. Credo che lei sia morta con questo rimorso. Sharon ne ha di rimorsi per la politica assassina che sta conducendo, la peggiore degli ultimi 20 anni. Beh, io credo che tu non l'abbia conosciuto, ma se così fosse stato, immagino che lui non avrebbe ordinato di ucciderti come ha fatto Arafat, né ti avrebbe offeso o umiliato in quanto donna. Si sa, gli israeliani sono persone di cultura, ora che mi viene in mente. Ma gli israeliani hanno la nostra cultura o la loro cultura? Sono occidentali o arabi? Tu che ne dici? Secondo me un po' arabi lo sono. Sharon non avrebbe offeso direttamente il tuo essere donna. Ma lo sai che le donne israeliane sposate non possono mai mostrare i loro capelli? Non farti ingannare dalle apparenze. Quelli che vedi sono i capelli di una parrucca. Al più possono indossare un cappello. E anche in casa, se ci sono persone che non fanno parte della famiglia. Io credo che questo tu lo sappia, Oriana. Si sa, tu sei una donna di cultura e lo ribadisci in ogni riga del tuo articolo con uno snobismo che fa rabbrividire. Allora, meglio la Torah ebraica o il Corano? Io non lo so e non me ne importa. Dacia Maraini, nella risposta al tuo articolo, ti ricorda che nessuna cultura è confrontabile con un'altra. È un concetto antropologico. A me basta solo dirti che nessun pensiero può essere chiamato cultura se offende e reclude le donne. Sei tu che hai fatto di un atto di terrorismo una guerra tra culture, anzi, tra una cultura, quella occidentale, e una massa di barbari, ovvero i musulmani. Certo ti devono aver fatto proprio incazzare per scriverci un libro. Inshallah, ad oggi il tuo ultimo libro è per ridurli a una massa di barbari assassini che invadono l'Italia. Ricorda quanto ti diceva, citando Pascal, il tuo amico François Pellon, così come tu l'hai scritto, in niente e così sia. Gli uomini non sono né angeli né bestie, ma angeli e bestie. I watch the car leave. E abbiamo ascoltato il bellissimo brano di Melissa Etheridge, I Want to Come Over. Io vi ricordo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del CLR, Coordinamento Lesbiche Romane, e vi ricordo anche che ci potete scrivere all'indirizzo email clrbp@hotmail.com. Was meant to see. E io riprendo a leggervi il brano di Deborah, non prima di avervi detto che chiaramente siete sia all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo conto, anzi perfettamente conto, è all'interno del martedì femminista autogestito di Radio Onda Rossa sugli 800 e 900 MHz, anzi sugli 87 e 900 MHz, vabbè, allora riprendiamo da dove abbiamo interrotto. Forse oggi l'hai dimenticato e nel tuo articolo sul Corriere della Sera è commovente il modo in cui rispolveri la tua cultura classica parlando dei monumenti di Firenze e delle altre città italiane vituperate dal piscio e dalla merda di questi barbari. Io però di piscio e merda in Italia ne ho sempre visti ovunque e, a meno che tu non li distingua per una tonalità di colore diverso, non capisco come fai a prendertela con gli immigrati con così tanta veemenza. Beh, certo, la massa degli immigrati ha dato un colore, nel senso proprio della parola, alla bassa delinquenza e agli strati più irrecuperabili della povertà. Chi meglio di me può saperlo da quando vivo a Milano, la città con il più alto tasso di immigrazione in cui abbia mai vissuto. Anch'io sono spaventata quando passo alle 10 di sera dalla stazione centrale. Poi entro nella metropolitana e vedo le facce stravolte di sudamericani, filippini, arabi e africani che tornano nei loro buchi di periferia, sovraffollati, dopo una giornata di lavoro nelle case della Milano Bene, che credo somiglino più alla tua villa di Firenze Oriana che al bilocale di Corso Lodi dove vivo io. E se esco presto la mattina, chi c'è secondo te in metropolitana? Loro, sempre loro. Ed è terribile scrivere quello che hai scritto tu sull'immigrazione. È terribile pensare che per un essere umano sia meglio sradicare le proprie origini, lasciare gli affetti più cari e arrivare nella nebbia e nel freddo di un paese che spesso non riescono nemmeno a comprendere. È terribile vedere come, parlando della delinquenza degli immigrati, trascuri il fatto che chi ci guadagna alla fine è sempre un italiano che, guarda caso, è sempre il leader di queste bande. E poi, credi davvero che l'Italia sia in pericolo per questo tipo di delinquenza? Ma se abbiamo addirittura al governo gente che è o è stata inquisita per delitti economici, per le stragi di Stato e per atti di terrorismo? Sì, Oriana, ricordi vagamente Piazza della Loggia, la stazione di Bologna, l'Italicus, eccetera. Credi che gli atti terroristici si misurano sul numero dei morti? Il terrorismo è lo stesso, a prescindere da chi lo perpetri. Possono essere discendenti di Dante Alighieri o di un capraio arabo. Alla fine muore sempre della gente innocente. Ebbene, Oriana, ora te lo devo dire. Ci sono dei brani del tuo articolo che mi fanno davvero vomitare. No, non sarò pacata e rispettosa come lo è stata Dacia Maraini. Non lo sarò proprio perché ho letto tutti i tuoi libri e credo fondamentalmente che tu ti sia definitivamente rincoglionita. Il problema è che c'è qualcuno che dà voce al tuo delirio da moglie dell'America e a tanti altri deliri derivanti dall'asservimento dei media che sto ormai oltrepassando ogni limite. Cristo, ma come fai? Sì, anch'io sono atea ed esclamo Cristo, come fai tu? Come fai a osannare l'America come il paese che ha inventato la democrazia? Ma cos'è per te la democrazia? Per fare le tue interviste sei andata solo in paesi musulmani o un giretto in Sud America l'hai fatto? Ebbene, Oriana, se dai una così esauriente immagine della strage allo stadio di Dhaka in Bangladesh, Mi sai almeno quantificare i morti dei governi fantoccio messi in piedi dalla CIA? Mi sai descrivere con tanta dovizia di particolari le torture fatte ai sandinisti, quelli veri, non quelli di oggi? Come fai a chiamare gli americani solo rincretiniti per aver dato le armi a quegli stessi terroristi afghani che hanno ammazzato proprio quelle persone per le quali oggi tu sei così indignata? E ora che armano l'alleanza del Nord, sono ugualmente rincretiniti? Ma insomma, se sono così cretini, facciamo in modo che non possano più nuocere al mondo intero. Oriana, tu lo sai come le trattano le donne e i guerriglieri dell'alleanza del Nord? Cerca di leggere i resoconti dei giornalisti che sono lì proprio in questo momento. Le donne saranno liberate dal burqa per rinchiudersi nel chador. I media stanno facendo di questa guerra civile in Afghanistan, dovuta a scontri tribali, una specie di guerra di liberazione. È una cosa ridicola, così come è ridicolo quando dici che è colpa delle donne se subiscono violenze e segregazione nei paesi musulmani. A tuo parere dovrebbero ribellarsi. Ok, Oriana, fai un viaggetto in Afghanistan e incomincia a ribellarti tu. In meno di 2 minuti finireste come Arafat ti ha più volte minacciato. Fai passare l'America come una sorta di giudice super partes che interviene dove il popolo ha bisogno di lei. Ma allora dov'era per le donne afghane? Diciamo la verità, loro valevano poco per il dio denaro americano. L'Italia e l'Europa invece valevano tanto. Valeva tanto il petrolio dell'Iraq, mentre le montagne slave valevano pochissimo, e quindi lì la guerra e gli stupri potevano andare avanti per anni se avessimo aspettato l'intervento del nostro giudice super partes. Eh sì, l'Italia, l'Europa e gli ebrei. Combattendo i nazisti, in realtà l'America ha solo costruito la sua fortuna. È diventata ricca proprio liberando città come la tua Firenze. Napoli no. La mia Napoli ce la siamo liberate da soli. Ah, è bella l'America, vero Oriana? L'America che tu definisci multietnica nel tuo articolo. Sì, multietnica. Peccato che sono trascorsi 2 secoli, una sanguinosa guerra civile. Gli assassini di Martin Luther King, di Malcolm X e di tanta altra povera gente per sancire che i neri avevano gli stessi diritti dei bianchi, quegli stessi neri che avrebbero gradito rimanere nella loro Africa invece di essere incatenati nella tua America delle libertà. Cito dal tuo articolo, Oriana. Più una società è democratica e aperta, più è esposta al terrorismo. Ma perché non lo racconti a Silvia Baraldini quando è democratica l'America? Perché non lo racconti a tutti i detenuti politici che moriranno in carcere avendo subito condanne 4 volte superiori alle normali leggi del diritto penale? Parlo dei detenuti politici che non hanno causato la morte di innocenti. Io sono contro tutti i terrorismi, io. Va bene, avrei tante altre cose da dirti, ma basta così. Termino con la stessa frase della poetessa afroamericana Maya Angelou, con la quale hai iniziato il tuo articolo. Be angry. It's good to be angry. It's healthy. Siate arrabbiati. Fa bene essere arrabbiati. È sano. L'importante però, signora Oriana Fallaci, è incazzarsi per tutte le ingiustizie, anche e soprattutto per quelle che nascono nella tua casa, anzi, dal tuo amato marito, l'America. Thank you. Sì. Vi ricordiamo che dal 30 novembre fino al 2 dicembre, quindi 30 novembre, 1 e 2 dicembre, alla Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales, la Federazione Romana del Partito della Rifondazione Comunista terrà un seminario sul genere, un seminario dove affronteranno il tema genere, politica e globalizzazione e che cosa resta del femminismo. Il programma dei lavori inizierà venerdì 30 novembre e alle ore 15, mentre sabato 1 dicembre i lavori inizieranno alle ore 9:30, però mentre venerdì i lavori inizieranno alla Casa Internazionale delle Donne a via San Francesco di Sales, sabato 1 dicembre invece i lavori alle 9:30 si terranno presso la Federazione Romana del Partito della Rifondazione Comunista in via Squarcialupo 58. E a seguire domenica 2 dicembre invece i lavori riprenderanno alle 9:30 presso la Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales. Inoltre l'UDI terrà giovedì 6 dicembre 2001 alle ore 18:30 un incontro dove si parlerà la pace non esiste senza democrazia, la democrazia non vive senza le donne. Interverranno Monica Lanfranco della rivista Marea, Lidia Menapace, Convenzione Permanente di Donno contro le Guerre, Liviana Zagagnoni dell'UDI. Interverranno Eda Billi, presidente dell'AFI, Rossana Galli dell'UDI, Sandra Grani del Centro Antiviolenza di Modena e Lea Melandri, femminista. E gli appuntamenti riprendono nel quarto d'ora in diretta, perché il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito. L'articolo era bellissimo di Deborah, andava letto bene, speriamo di esserci riuscite. Pina è stata secondo me bravissima e non ci lasciate, abbiamo il quarto d'ora in diretta, vi daremo anche altri appuntamenti, aspettiamo i vostri trillini che per il momento non ci sono ancora, ma speriamo che vi facciate sentire, così ci fate sentire meno sole. E ci risentiamo a martedì prossimo con la replica, però non sintonizzatevi su nessun'altra radio perché ci siamo ancora noi per un quarto d'ora. Ciao. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa.